Letture di Radio 24. Da Londra a Reykjavik si moltiplicano i boicottaggi nei confronti di Israele. Ma stranamente, ancora una volta, ci si dimentica della Siria, della Corea del Nord o dell'Iran. Commenta Aldo Grasso in un editoriale pubblicato sul Magazine 7. Nessun legame accademico e professionale con colleghi israeliani. Ma anche nessuno studente israeliano, nessun libro di testo redatto da israeliani. È quanto ha deciso la London University nel marzo scorso, mettendo ai voti il boicottaggio accademico nei confronti dello Stato ebraico. La London University, la più prestigiosa università inglese per gli studi medio orientali, è diventata così il primo ateneo inglese a votare ufficialmente la fine di ogni relazione con i colleghi israeliani. Magari uno si aspettava che la prestigiosa London University boicottasse anche stati come la Siria, il Sudan, il Qatar, l'Iran, la Corea del Nord, tanto per fare alcuni esempi di canagliume. Ma si vede che il boicottaggio accademico mira di più a punire le idee che i fatti concreti. E anche il celebre fisico e cosmologo britannico Stephen Hawking aveva annullato anni fa la propria partecipazione a una conferenza promossa dal presidente israeliano Shimon Peres a Gerusalemme, aderendo alla campagna di boicottaggio degli accademici britannici nei confronti di Israele. Un cosmologo lungimirante. Adesso è scesa in campo l'Islanda con i suoi 323.000 abitanti. Vuole boicottare i prodotti israeliani. Il comune di Reykjavik ha infatti votato un provvedimento con cui la città non accoglierà nessun altro oggetto prodotto in Israele, fino a quando questa continuerà l'occupazione del suolo palestinese. Ad avanzare la mozione, Bjork Willemsdottir, consigliere della Social Democratic Alliance, che prima di ritirarsi dalla politica, voleva lasciare un suo contributo all'impegno per i diritti umani, a cui da sempre la città islandese guarda. Niente boicottaggio nei confronti del califfato, della jihad islamica, di Al-Qaeda. Solo Israele. Solo uno Stato democratico. La miglior risposta a queste ipocrite forme di protesta è venuta da Yair Lapid, leader del partito israeliano Yesh Atid. Ha scritto: «Il boicottaggio include anche i prodotti fatti dalla minoranza araba in Israele, che rappresenta il 20% della popolazione? Il boicottaggio include i 14 parlamentari arabo-israeliani che siedono accanto a me nel Parlamento israeliano? Il boicottaggio include anche le fabbriche che danno lavoro a decine di migliaia di palestinesi, per i quali questa è l'unica opportunità per provvedere ai propri figli? Il boicottaggio include anche gli ospedali israeliani nei quali decine di migliaia di palestinesi vengono curati ogni giorno? Il boicottaggio include anche le popolazioni fatte dal 71% degli israeliani, che secondo l'ultimo sondaggio sostiene la soluzione di due popoli, due stati e la creazione di uno stato palestinese accanto a Israele? Il boicottaggio dovrebbe anche includere Microsoft Office, le videocamere dei cellulari, Google, ognuno dei quali contiene elementi inventati o prodotti in Israele. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Aldo Grasso, Boicottaggio, ipocrita, di Israele, dal Magazine 7 del 2 ottobre. Radio 24 ti aspetta a Fotoindustria, a Bologna, per un appuntamento da non perdere. L'ora è deciso? Do l'annuncio. Allora, ho deciso, 50 di voi saranno con me mercoledì 14 ottobre alle 19.30 a Bologna. Andremo a visitare Fotoindustria, l'unico festival della fotografia industriale organizzato in Italia. Sarà una cosa fantastica. Mandate le vostre foto di reperti industriali, anche se fotografate lo sciacquone di casa, sta bene lo stesso, a melog@radio24.it. E la notte sarà giovane, ancora dopo tanto, tanto, tanto tempo. Info su radio24.it. Letture di Radio 24. Mercoledì scorso un gioielliere di Ercolano ha ucciso due rapinatori che gli avevano appena rubato 5.000 euro sotto la minaccia di un'arma. «Non ho sparato per i soldi, ma per difendere la mia vita. Ero certo che fosse finita», ha dichiarato l'uomo al PM della direzione distrettuale antimafia che lo stava interrogando. L'accusa per lui è di eccesso di legittima difesa. La pistola di uno dei due rapinatori era caricata a salve, ma di questo non poteva essere a conoscenza il gioielliere, che al PM ha dichiarato di aver fatto fuoco quando ha sentito il ladro che scarrellava l'arma per mandare il colpo in canna. Anche se per questa rapina hanno usato armi giocattolo, probabilmente per non avere imputazioni in più in caso di arresto, i due ladri erano tutt'altro che inesperti. Come scrive Fulvio Buffi sul Corriere della Sera dell'8 ottobre, si trattava di due professionisti che facevano rapine da quando erano ragazzini e avevano un lungo elenco di precedenti penali. Al di là dell'imputazione per eccesso di difesa, che in casi come questi è un atto dovuto, quello che fa riflettere sono le parole con le quali la moglie di uno dei due rapinatori ha inveito alla folla, dicendo che il gioielliere ha ucciso per 5.000 euro e deve pagare. In un paese come il nostro, dove nel 96% dei casi i furti restano impuniti, evidentemente si sta diffondendo la percezione che rapinare ed essere rapinati siano equivalenti. C'è da augurarsi che ora non si levino le solite lamentele per un'Italia da Far West o per abuso di legittima difesa, commenta Paolo Granzotto su Il Giornale, che poi continua. Che la solfa del politicamente corretto, dei delinquenti tali solo per il loro disagio sociale e dunque per colpa nostra, non si associ all'augurio di una delle mogli dei rapinatori, che riferendosi al gioielliere ha rivendicato, anche lei nel coro, ha sbagliato e deve pagare. Una prospettiva rorida di buonismo ben rappresentata nel flash dell'Huffington Post di Lucia Annunziata, dove ci si riferisce, dando conto dei fatti di Ercolano, a presunti banditi e presunti rapinatori. E questo anche se nelle tasche di uno di questi sono stati trovati i 5.000 euro non presunti rapinati al gioielliere. Piuttosto ci sarebbe da interrogarsi sulle ragioni che incoraggiano sempre più l'autodifesa, che includono persone come il gioielliere di Ercolano a vivere con un'arma a portata di mano, e di converso che favoriscono il proliferare di quella che viene liquidata come microcriminalità, eppure ben più nociva, ben più pregiudizievole al cittadino che non la macrocriminalità organizzata. Rispondere a questa domanda non è difficile. Per ammissione degli stessi procuratori generali, furto e rapina sono reati in pratica depenalizzati. Il 96% di quelli denunciati resta impunito. Un forte incentivo per intraprendere certe carriere. Questa sgradevole realtà si riflette inevitabilmente sul ricorso all'autodifesa. Ci si sente inermi, indifesi dal crimine grande o piccolo che sia. Nessuno invoca uno stato di polizia. Questo no. Anche se negli stati di polizia che furono la criminalità era ridotta all'osso. Quel che si chiede è un maggior e più capillare controllo dell'ambiente urbano, una maggiore presenza dello Stato, delle autorità dello Stato, rappresentata da uniformi, mostrine e distintivi. Mancando quello giudiziario, il solo deterrente alle attività criminose, al braveggiare dei violenti. Sapere che quella zona di Ercolano è abitualmente presidiata da agenti dell'ordine in ronda avrebbe fortemente sconsigliato i due rapinatori a fare il colpo finito poi nel sangue e rassicurato il gioielliere, inducendolo, magari, a non uscire armato. Intanto, proprio nel giorno in cui il ministro degli interni glorificava i suoi successi nel contenere il femminicidio, una giovane madre moriva accoltellata nel Catanese. Il giorno medesimo avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per sostenere l'accusa di stalking rivolta al compagno, ora arrestato con l'accusa di omicidio. Sarebbe stato troppo pretendere dal ministro Alfano, che pure ha a cuore la sicurezza, giungendo a muoversi con 48 auto di scorta, che in quelle circostanze la donna fosse protetta, al riparo da presumibili atti ostili del convivente? E quello che avete ascoltato era l'articolo di Paolo Granzotto, Stato assente e criminali impuniti. La difesa armata è un diritto. Da Il Giornale dell'8 ottobre. La mattina del 1 ottobre, il professor Tommaso Bertelli, preside dell'Istituto Pralormo di Empoli, ha scritto una circolare in cui invita i suoi 1675 studenti a salutare. Buongiorno, salve, ciao. Quei lubrificanti esistenziali che per strada o in ufficio sono rimasti in pochi a maneggiare, e quei pochi guardati con sospetto, come se dietro la formula di cortesia si nascondesse un secondo fine indicibile o un'invasione della privacy. La notizia mi ha sconvolto per vari motivi. Intanto, per il numero degli studenti. Ho fatto ancora in tempo a crescere in scuole dove il preside regnava su una bottega di allievi che tutti conosceva e di cui conosceva tutto, non ancora su un'azienda di medie dimensioni. E poi perché pare che il suo sermoncino abbia funzionato, che i ragazzi abbiano cominciato a salutare chiunque capitasse a tiro, i compagni, i bidelli, perfino i professori, e che il loro umore ne abbia tratto giovamento. Quindi non è che prima non volevano farlo, è che proprio non sapevano che si potesse fare. C'è voluta una circolare per informarli dell'esistenza di questa strana pratica che sta alla base della convivenza tra esseri umani mediamente evoluti. Qualcuno di loro ne aveva sentito parlare di sfuggita, in casi eccezionali addirittura in famiglia. Di sicuro mai alla televisione, ma l'avrà associata a un'ammissione di debolezza o a una sdolcinatura, rimuovendola immediatamente. Finché un giorno, grazie a una circolare del preside, ha scoperto che la buona educazione non è buona perché melensa, è buona perché fa bene. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Massimo Gramellini, La buona educazione, dalla Stampa del 6 ottobre. Osservando i viaggiatori in aereo o in treno, si possono notare dei gesti, spesso inconsapevoli, che li accomunano un po' tutti. Come ad esempio slacciare le cinture nell'istante stesso in cui l'aereo atterra, o portarsi con i bagagli verso l'uscita del treno quando manca ancora mezz'ora all'arrivo. La mente dei viaggiatori è strana. Prendiamo quelli da aeroplano. Hanno una serie di vizi, anche dettati dalla paura, che non accennano mai a diminuire. Fateci caso. Appena si spegne il segnale luminoso per le cinture, scattano tutti in piedi e vagano per l'aereo alla disperata ricerca della toilette, che per l'appunto non è così difficile da trovare. Gli uomini, soprattutto. Le donne, invece, si fiondano sulla cappelliera per il loro bagaglio a mano. Non hanno nulla da prendere, ma aprono lo stesso la valigia. È un gesto nervoso che gli assistenti di volo conoscono ormai a memoria, ma il massimo si raggiunge una volta toccata terra e in vista della stazione aeroportuale. L'assistente di volo, pazientemente, invita i passeggeri a non alzarsi fino a quando il solito segnale luminoso non sarà spento. Manco per idea. Appena l'aereo accenna a fermarsi, sono già tutti pronti a scendere. Si prendono anche a calci. Ci sono persone che, pur di non attendere il turno seduti al loro posto, si contorcono, ma devono essere pronti a scendere. Per andare dove? Da nessuna parte. L'importante è scendere. Anche perché quelli che arrivano da un lungo viaggio li trovi tutti al nastro dove si ritirano i bagagli e sanno che scendere per primi non vuol dire che il tuo bagaglio arrivi subito. Diverso è il viaggiatore da treno. Tratta Firenze Santa Maria Novella Bologna Centrale. Viaggio 35 minuti, ma non importa. Chi sale ha fame. E non gliene importa niente se per libagioni e cibo c'è la carrozza ristorante. E ci sarà anche un motivo. Loro si sono fermati da McDonald's, aprono il sacchetto puzzolente, ingurgitano un doppio cheeseburger con cetriolo, scolano la birra e mollano anche il ruttino. Poi anche loro, dopo una telefonata che può ascoltare benissimo anche il macchinista, colti dalla sindrome di dover toccare terra, si avviano verso l'uscita. Prendono il bagaglio, in genere sono trolley rigidi grandi che dentro ci puoi nascondere un cadavere, e via. Si piazzano alla porta, con un piccolo problema: la vescica di quelli che restano a sedere, perché a differenza del volo, in genere breve, sul treno passi delle ore e può capitare di dover raggiungere la ritirata. Niente da fare, l'ingresso è ostruito dalla valigia col cadavere, bambini che strepitano, nonni che cadono a terra per la stanchezza. Ma non siamo ancora arrivati? Evidentemente no. Se ti alzi in piedi a Parma e devi scendere a Milano, più o meno servono ancora tre quarti d'ora. A quel punto se la prendono con l'alta velocità, i ritardi, quasi mai con il governo, perché tanto ormai non ci sperano più neanche loro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tutti in piedi ossessivamente, ma l'aereo non è ancora arrivato, da Il Fatto Quotidiano del 5 ottobre. I soldi non fanno la felicità. È quanto abbiamo sentito ripetere da sempre. Ma sarà vero? Dati alla mano, uno studio prodotto dall'Istituto di Statistica del Regno Unito dimostra il contrario. Il benessere e la soddisfazione personale legata ad esso riducono gli stati di ansietà. Esiste tra ricchezza e stress una sorta di correlazione inversa. Più la prima è alta, più è debole il secondo. Interessante l'analisi dei tipi di ricchezza che rendono maggiormente felici. L'agiatezza finanziaria, quella che è legata alla produzione di ricchezza di azioni e obbligazioni, titoli di borsa, insomma, ma anche risparmi fino alle mazzette di contanti sotto il materasso, producono meno stress della proprietà immobiliare o i fondi pensione. Come ci insegna Jane Austen, una buona e seria rendita annuale è la miglior formula per la felicità. Chi invece deve combattere con gli affitti e la gestione delle proprietà ne risulta più stressato. Altra scoperta, il consumo di beni di lusso non aiuta ad essere felici. Insomma, piangere dentro una Maserati non è meno traumatico che piangere in riva al mare. Un discorso analogo vale per il gruppo sociale di riferimento. Frequentare gente meno ricca di noi non aiuta ad essere felici e, all'inverso, avere amici più ricchi non ci rende più infelici. È piuttosto il ritmo di crescita economica complessivo che ha un impatto sulla felicità. Nelle nazioni dove maggiore è lo sviluppo economico, per chi ne beneficia, si respira un'aria impregnata di positività. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Loretta Napoloni, La felicità non sarà questione di soldi, ma dal venerdì di Repubblica del 2 ottobre.